Si terranno anche quest'anno in San Petronio alcuni incontri come ideale prosecuzione di quelli dell'anno scorso. Il tema quest'anno è sugli imperi, il rapporto tra il potere e il sacro nella politica e negli imperi. Ed è importante che questa riflessione avvenga in San Petronio, che, come ha detto il Cardinal Zuppi, è la Chiesa Civica e la Chiesa dei Bolognesi. Inizieremo il 13 maggio con una mia relazione su Roma. Roma sembrava destinata a non finire, invece crollerà sotto i colpi delle invasioni barbariche con l'avvento del cristianesimo, per poi trasferirsi questo impero a Bisanzio. Il secondo incontro avrà come ospite il professor Franco Cardini, il quale parlerà della Repubblica Cristiana lungo il Medioevo, un Medioevo che vedrà l'Occidente più laico e più secolarizzato rispetto a un Oriente più cristiano, più messianico. E infine l'ultimo incontro con il professor Cacciari, che parla degli imperi di oggi e porrà il problema: qual è oggi il rapporto tra la religione, il sacro e il potere dell'impero, anzi dei vari imperi.